Ciao a tutti, voi sapete chi sono? Sono Chine Rap e questa volta voglio fare una canzone dedicata alle donne. Buon ascolto, questa è tutta vostra. Racconto quello che non so dire parlando, in questo modo te lo dico rappando. Spero che tu mi stia ascoltando, se no spengo il mic e me ne vado. Perché io solo per te sto cantando, non lo faccio per buttare fiato, altrimenti gonfiavo palloncini per qualche bimbo malato. Così si sente felice e divertito, talmente tanto da fargli tornare l'appetito. Torniamo al punto dove sono partito. Ti volevo raccontare di una legge antipervertito, è quella contro lo stalking, non l'hai mai sentito? Se ti rompe le scatole ogni giorno al cellulare, se ti vuole fare male, tu tranquillamente lo puoi andare a denunciare. Non devi avere nessuna paura, ti basta poco per andare in questura. Rivolgiti alle associazioni importanti, sono gentili, non sono arroganti. Oh yeah. Se sono giorni, mesi, non puoi continuare a stupire. Le donne non si toccano e qualcuno lo deve ancora capire. E porco cane, ci sono in giro ancora queste arretrati. A quelle povere mamme come li hanno educati, venissero da me a fare quello che fanno a voi. Ti metto a pascolare in mezzo campo di buoi. E se ti lamenti, caro stalker, sono fatti tuoi. E marcerai in galera senza vedere nessuno dei tuoi. Cara donna, fatti valere, questo è malato e vuole potere. Sei più forte di lui perché tu sei la sua ragione. Ma se chiami la polizia se ne andrà in prigione. La legge farà il soccorso e tu sei libero e senza rimorso. Alla fine ciò che è passato nella tua mente passerà, perché il tuo futuro fidanzato ti sorprenderà. Andrai avanti e nessuna cosa brutta ti capiterà. Semmai qualcosa di bello nella tua pancia ci sarà. Raggiungerai in pieno la tua felicità. E la vuoi sapere una cosa? Io ho sempre pensato, io ho sempre dato la fiducia a qualunque persona. Ma non sempre un sorriso nasconde quella buona. Ma l'anima e il cuore nasconde quella pura. Per vedere la loro sincerità, mettili alla prova. Il bastardo si scova. Non aver paura, ti basta poco per andare in questura. Non aver paura, ti basta poco per andare in questura. Renditi la vita libera e senza preoccupazioni. Denuncia tutti questi coglioni. Non aver paura, ti basta poco per andare in questura. Non aver paura, ti basta poco per andare in questura. Non aver paura.